Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con la stampa periodica italiana e non solo, con i settimanali che ci sono in questi giorni in edicola. Allora, cominciamo da una intervista con l'uomo più importante del mondo, probabilmente, cioè Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti d'America. Questa intervista è apparsa su Newsweek, di questa settimana. È una lunga intervista in cui il presidente degli Stati Uniti d'America racconta un po' il suo primo periodo di presidenza e di residenza alla Casa Bianca. Un dettaglio non irrilevante: l'intervista è stata rilasciata a bordo dell'Air Force One, cioè questo aereo presidenziale che è un po' un simbolo del potere degli Stati Uniti d'America e del presidente stesso. Questa intervista, però, per chi non avesse piacere di leggerla in inglese su Newsweek, vi segnalo che è anche riportata su L'Espresso di questa settimana, la stessa intervista tradotta. Vi segnalo qualche brano. Obama parla molto di politica estera e una delle risposte probabilmente più interessanti è una delle prime domande: qual è stata la scelta più difficile che ha dovuto prendere? Gli chiede John Meacham, che è l'intervistatore. La decisione più difficile è stata quella, risponde Obama, di inviare in Afghanistan altri 17.000 soldati. Una decisione del genere implica grande serietà, perché è presumibile che alcuni giovani uomini e donne mandati in guerra ne resteranno vittime. È necessario, spiega ancora Obama, essere sicuri di aver riflettuto bene su ogni aspetto e approdare alla miglior strategia possibile. Questa il fatto di essere consapevole che la missione in Afghanistan è straordinariamente complessa e che non abbiamo garanzie di vittoria ha reso la decisione quanto mai difficile. C'è un'altra domanda che poi gli viene rivolta e che riguarda sempre i teatri caldi, i teatri più difficili dello scenario mondiale. Dice: sta pensando di inviare ulteriori truppe dopo questo invio in Afghanistan? La risposta di Obama è: credo sia prematuro parlare adesso di ulteriori truppe. In realtà il mio pensiero è che non sono situazioni che si possono affrontare semplicemente continuando ad inviare forze militari. Questa le risposte in materia appunto di Afghanistan da parte di Barack Obama, rilasciate in Newsweek ma visibili anche sull'Espresso di questa settimana. E poi ancora qualche altro dettaglio: ci sono molte altre risposte in materia sempre di politica estera e di terrorismo, ma ci sono anche dei lati un po' più privati del presidente. Ad esempio gli si chiede com'è divisa la sua giornata. Allora, la giornata di Obama è divisa così: dice, sono un animale abbastanza notturno, il mio giorno tipo è il seguente: mi alzo la mattina, arrivo in ufficio tra le 8:30 e le 9, lavoro fino alle 6:30 del pomeriggio. Poi ceno con la mia famiglia, sto un po' con le bambine e le metto a letto intorno alle 8:30 della sera. A quel punto leggo carte, giornali, appunti che devo preparare fin verso alle 11:30 di sera e poi vado a dormire intorno alle 12:30. Quindi questa è la giornata del presidente. Gli chiedono anche se segue le TV via cavo. Lui risponde di no, che in realtà l'unica cosa che riesce a vedere in televisione, per quella poca immaginiamo che riesce a vedere, sono le manifestazioni sportive. E poi qual è l'ultimo film che ha visto? Risponde Star Trek è in circolazione da poco tempo anche da noi. Dice: l'ho visto lo scorso fine settimana e tutti mi hanno detto che io somiglio a Spock, ricorderete il vulcaniano, per chi conosce il telefilm Star Trek, la serie di Star Trek, è lo scienziato vulcaniano che è un po' un simbolo di questa serie. E tra l'altro, confessa Obama sempre in questa intervista, è un telefilm che io guardavo anche quando ero piccolo e mi piaceva molto. Le storie erano sempre evocative e c'era pure una sorta di piccola filosofia popolare che era molto facile per un bambino di 10 anni recepire. Questa è l'intervista di Obama su Newsweek e sull'Espresso di questa settimana. Restiamo un istante su Newsweek perché Newsweek è cambiato. Ora, al di là della curiosità per vedere come si possa modificare un prodotto conosciuto in tutto il mondo, un prodotto giornalistico conosciuto in tutto il mondo, è interessante notare che John Meacham, cioè lo stesso intervistatore di Barack Obama, e Fareed Zakaria spiegano come mai hanno deciso questi cambiamenti nella veste grafica, nell'aspetto di Newsweek. E l'esordio dell'editoriale è già un po' un programma, perché dice: non è un segreto che l'editoria, il giornalismo, sia in una fase di difficoltà. E questo purtroppo è vero non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia e in molti paesi. Si riporta però una frase di Thomas Jefferson che è stata ripresa proprio dal presidente Obama di recente. Jefferson, presidente degli Stati Uniti appunto, ha detto che avrebbe preferito un paese in cui ci sono i giornali ma non c'è un governo, piuttosto che un governo senza giornali. Questa appunto una frase ottimista anche per così sul futuro dell'editoria in generale, che sia poi di carta o digitale o come preferite immaginarla. Lo stesso editoriale appunto, nel presentare la nuova veste decisamente semplificata di Newsweek, riferisce che il problema, anche per un settimanale di così vasta diffusione e che può contare sulla lingua inglese, è quello della concorrenza con internet e della concorrenza con i quotidiani, quindi c'è una disponibilità di informazioni nettamente superiore. Quindi Newsweek ha deciso di puntare su due tipi di informazione: i saggi argomentati, i saggi diciamo più corposi, e i reportage, cercando dei particolari che possono essere meno noti o possono essere sfuggiti nella copertura quotidiana da parte degli altri media. Cambiamo decisamente argomento con Wired. Questo mese è tornato in edicola Wired. Il terzo numero ha una copertina decisamente scioccante, perché vi si vedono un uomo e una donna che vestono entrambi, sono entrambi dotati di protesi, di quelle che sono diventate famose con i corridori disabili. Quindi il servizio di copertina è dedicato alla tecnologia che cancella le disabilità, e in questo senso anche uno dei servizi che vi segnalo, ad esempio quello che riguarda la possibilità di teleguidare i robot con il pensiero. Asimo, io vorrei che tu mi portassi il giornale. Questo è il titolo della servizio sugli studi che si stanno facendo sulla possibilità di teleguidare appunto con il pensiero per i robot a distanza. La collaborazione, tra l'altro, la ricerca nasce in collaborazione tra la multinazionale dell'auto Honda e il suo famoso robot Asimo, e con uno scienziato che si chiama Mitsuo Kawato e un'altra azienda leader mondiale di sistemi di misura dell'attività del cervello. Che cosa stanno cercando di fare? Si sono resi conto innanzitutto che alcune aree motorie del cervello non si attivano solo quando viene eseguito un movimento, ma anche solamente immaginando di fare quel movimento. Quindi un'azione o semplicemente il pensare di compierla provoca variazioni dell'attività neurale che possono essere rilevate mediante apparecchiature adeguate. Nel caso del controllo di Asimo, i ricercatori hanno utilizzato due strumenti che vengono usati anche in ambito clinico, cioè l'elettroencefalografo, che misura le variazioni di corrente elettrica generate dai neuroni, e un apparecchio che invece effettua una misura ottica particolare. Unendo questi due strumenti è possibile in qualche modo cercare di muovere a distanza un robot. Abbiamo ancora un minuto, credo, prima di lasciare la linea alle informazioni sul traffico. Allora, resto sempre su Wired di questo mese. C'è una raccolta di esperimenti curiosi ma realmente eseguiti. Ad esempio, a Palo Alto in California hanno studiato come mai quando l'auto davanti non parte al semaforo dietro suonano il clacson, e si sono accorti che c'è una correlazione tra chi guida l'auto e lo stato dell'auto e il clacson stesso. Dice: la maggior parte dei colpi di clacson è rivolta a donne alla guida e ad auto malconce, invece una Chrysler Crown supera indenne il 50% dei test. Oppure altri ricercatori in Inghilterra si sono premurati di verificare se il formaggio mangiato alla sera provoca incubi. La conclusione è stata che no, non c'è nessun legame tra mangiare formaggio la sera e avere degli incubi. Un'ultima cosa che vi segnalo, un ultimo esperimento fatto nel Mississippi: se la cameriera sfiora il cliente dando il resto, ha più possibilità di ottenere mance. Quindi un consiglio, in qualche modo il contatto comporta una maggiore, o comporterebbe, secondo i ricercatori del Mississippi, una maggiore probabilità di avere una mancia consistente. Magazine 24. Bentornati alla nostra rassegna dei settimanali. Stavamo parlando di esperimenti buffi, di progresso, appunto con l'ultimo numero di Wired. C'è anche un lato del progresso che è decisamente meno simpatico. Ne riferisce Famiglia Cristiana: la beneficenza e la rete bucata. Che cosa è successo? È successo che una sessantina di artisti, come sapete forse, hanno inciso per beneficenza una canzone. La canzone si chiama Domani, e i proventi della vendita di questa canzone vanno tutti alla ricostruzione in Abruzzo. Però è già diventato un terreno di scontro per l'annosa battaglia sul copyright, perché ancor prima che uscisse in commercio il brano è finito su internet nei circuiti di condivisione, cosiddetti peer-to-peer, e così praticamente sono state vanificate delle possibilità di vendere questo brano e soprattutto di ricavare dei fondi da destinare poi all'iniziativa benefica, appunto, di sostenere la ricostruzione. Il punto della questione non è, scrive Famiglia Cristiana, la degenerazione di chi scarica senza pagare, ma il profondo cambiamento della società che è provocato dalle tecnologie digitali. Oggi esistono programmi di efficacia straordinaria che permettono di scaricare qualsiasi brano o filmato digitandone semplicemente il titolo. Inutile far finta di nulla, o peggio, combattere il progresso con armi di dubbia legalità. Questo è il giudizio di Federico Polvara su Famiglia Cristiana, come è successo in Francia, dove è stata appena approvata una legge antipirateria che punisce, escludendo dalla rete, chi viene scoperto a scaricare tre volte materiale protetto da copyright. Quindi, da questo esempio di clonazione illegale, perché poi di fatto non è comunque consentito utilizzare materiale protetto da copyright scaricandolo dalla rete senza pagare, però in questo caso ad andarci di mezzo sono i proventi di una iniziativa benefica. Ma da qui Polvara allarga il discorso alla possibilità di tutelarsi semplicemente introducendo misure più repressive, e il suo giudizio è negativo nei confronti di questo tipo di misure. Ancora su Famiglia Cristiana, ma cambiando davvero argomento, il diritto di nido, un'inchiesta che è dedicata agli asili per l'infanzia, la condotta Renata Maderna. Trento, in base a questa inchiesta, la città meglio servita, e Napoli quella invece messa peggio. Si apprende tra l'altro dai dati che vengono presentati nell'inchiesta che i posti nido ogni 1000 bambini tra gli 0 e i 3 anni in Italia sono 146 di media, ma con Bologna 276 posti disponibili, fino ad arrivare a Napoli che ne ha solo 29. Il confronto europeo è decisamente a nostro sfavore, perché Berlino supera ampiamente i 300 posti disponibili, così anche Madrid e Monaco. Londra, che è la peggior capitale di quelle segnalate, è comunque al di sopra della media italiana, intorno ai 160 posti. Quindi una difficoltà in questo servizio, che è una difficoltà tra l'altro che poi si ripercuote naturalmente sulle spese delle famiglie. E vediamo che cosa succede, visto che abbiamo parlato dell'estero, per quanto riguarda l'assenza dal lavoro, perché ho visto sul Venerdì ieri una classifica interessante: efficienti eppure assenteisti, lo strano caso della Svezia Felix, della Svezia Felice. In un libro la spiegazione di due ricercatori. Gli svedesi, scrive Gaetano Presciantelli sul Venerdì, sono longevi, mangiano sano e fanno ginnastica, ma nella classifica europea delle assenze dal lavoro per malattia sono secondi solo alla Norvegia, un dato che contrasta con la nota immagine di efficienza del paese e che due etnologi svedesi appunto hanno provato a spiegare in un libro. Hanno fatto dei confronti, questi due etnologi svedesi hanno notato che nel sud della Svezia, dove si concentrano le città e le aziende più ricche, gli assenteisti sono mal visti, mentre nelle zone rurali del nord fa meno scandalo chi si mette in malattia per andarsene a pesca o fare un lavoretto extra. Anzi, per alcuni è una giusta risposta alla desolazione del nord e una piccola rivincita sugli svedesi meridionali che vengono considerati tutti soldi e carriera. Allora, visto che parliamo di abitudini, vediamo un'abitudine invece più italiana. Ce la racconta Panorama, l'abitudine appunto di correre, generazione runner, runner appunto dalla definizione inglese, corridore. Onore e sudore, non vedono l'ora di allacciarsi le scarpe e correre al parco, in riva al mare o in città. Sono oltre 2 milioni gli italiani che si allenano come per diventare maratoneti, radiografia di un fenomeno che ormai è pure un grande business basato su integratori, abbigliamento e gadget tecnologici. Chiara Risolo, in questo numero di Panorama, ci racconta appunto che oltre al numero dei 2 milioni di corridori, di runner italiani, c'è questo tipo di frequenza: 66,55%, 2 su 3. Corrono almeno una volta alla settimana, solo un terzo, anzi meno, il 27% è rappresentato da donne, il 68% di questi 2 milioni a età superiore ai 30 anni, si contano poi 33.000 maratoneti amatoriali, di cui oltre 28.000 uomini, quindi una maggioranza decisamente consistente, e 3.149 sono state le presenze alla maratona di New York edizione 2008. Con queste 3.149 presenze l'Italia è stata il gruppo straniero più rappresentativo, più consistente. Italiani, popolo di poeti, santi e maratoneti, scrive appunto Chiara Risolo, si inizia per gioco, per perdere qualche chilo, per fare felice il compagno o la compagna che corre da tempo o per vincere la noia della vita sedentaria, ma nel giro di poco tempo, quasi senza rendersene conto, si casca nella mania della corsa al parco dopo o prima dell'ufficio, e così anche comincia una ricerca di accessori, di scarpe e non solo, per poter correre comodi. Avere ad esempio un iPod può aiutare per non sentire i rumori, e ci sono questi sempre maggior c'è un numero sempre maggiore di appassionati che continua a infoltire le schiere appunto dei runners italiani. Sempre su Panorama c'è invece tutt'altra questione affrontata da Luca Ricolfi nella sua rubrica Fatti e Credenze, sicurezza problema insolubile. Ricolfi mette a confronto il fabbisogno di posti in carcere con la reale disponibilità di posti in carcere appunto in Italia. 140.000 anni uomo è il conto che presenta Ricolfi, la disponibilità reale è di 6.000, quindi c'è una netta separazione tra quanti sono i posti che servirebbero e quanti effettivamente ce ne sono. E con questa ultima segnalazione io vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana con Magazine 24. Ringrazio Filippo Auregi questa mattina in regia e Vittoria Mussini e Daniele Casagrande, che invece sono come sempre gli assistenti al programma. Grazie e alla settimana prossima.